Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meli. Si è appena tornato da Shanghai, dove si è fatto conoscere alla fiera della tecnologia. È una sorta di maestro digitale, un'intelligenza artificiale specializzata nell'insegnamento della matematica e nel riconoscimento degli odori, ma in realtà in tanti giochi, risultato di un progetto Infanzia Digitale 3.0 finanziato dal MIUR, coordinato dalla società Engineering, che ha coinvolto Università Federico II di Napoli, Università di Salerno, di Trento e Università Sapienza di Roma. Ne parliamo con Orazio Miglino, che è professore di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla Federico II, dove dirige anche il laboratorio per la cognizione naturale e artificiale. Buonasera Miglino. Buonasera a tutti voi. Allora, intanto diciamo subito una cosa: gli insegnanti possono stare tranquilli, non è per sostituire loro questo maestro digitale. No, assolutamente, è uno strumento che si vuol dare agli insegnanti, ma anche che si vuole costruire insieme agli insegnanti. Stiamo costruendo insieme agli insegnanti e va a recuperare alcune pratiche psicopedagogiche che fanno parte della nostra tradizione, come quelle montessoriane. Ecco, ci descrive un po' questo oggetto. È grande più o meno come una piccola scrivania. Come funziona? Allora, abbiamo questa scrivania che è un'area sensibile che rileva la presenza di oggetti, appunto possono essere delle boccette di odori o i regoli o i blocchi logici o qualsiasi oggetto. Questa rilevazione quando li si appoggia lì sopra viene, sì. No, la scrivania lo riconosce e questo innesca, rende possibili tutta una serie di giochi, no? Esattamente, quindi poi ovviamente un tablet collegato alla scrivania può dirigere le attività degli utenti, dei piccoli utenti. Un esempio, beh, quello degli odori forse è quello più semplice. Abbiamo una serie di boccettine di odori con le varie essenze e il gioco è selezionare alcuni odori e riconoscerli. Ovviamente questa selezione degli odori, la selezione delle boccette, quindi degli oggetti fisici, viene fatto spesso in compagnia di alcuni bambini. Questo è un aspetto importante, perché uno si domanda un po' cosa cambia in fondo fra questo oggetto progettato da quattro università e uno dei tanti giochi interattivi che si trovano ormai dappertutto, no? Ma uno è l'aspetto sociale, comune, per esempio. Sì, in comune hanno l'interazione, solamente che non è solamente un'interazione mediata dal touch screen, ma è un'interazione mediata dagli oggetti fisici. L'interazione con gli oggetti fisici, gli odori, addirittura il tatto, eccetera, automaticamente attiva anche una componente sociale, perché facciamo alzare gli occhi dei bambini dal tablet, dal touchscreen. Ecco, cioè il fatto di poter quindi mettere insieme questa componente, diciamo così, dell'informatica con tutti i pregi che può avere, però con un aspetto fisico, attiva una risposta diversa da parte dei bambini, che non si isolano ma tendono a magari giocare insieme, no? E imparare di conseguenza insieme. Sì. Dove e quando entrerà in azione questo maestro digitale? Perché insomma il debutto è già in qualche modo pianificato, almeno a livello di sperimentazione. Sì, la sperimentazione avverrà appunto in Trento, nella regione Lazio e nella regione Campania, in due plessi, Napoli e Agropoli, che è un piccolo paese del Cilento, proprio per avere due realtà metropolitane e diciamo più contenute, e avverrà dal prossimo anno scolastico, per tutto il prossimo anno scolastico, in alcune scuole campioni. Senta, abbiamo esordito dicendo che appunto questo oggetto non serve a sostituire gli insegnanti, anzi lei prima mi diceva che potrebbe anche imparare qualche insegnante da questo oggetto, qualche metodologia nuova forse, però ecco, viene da pensare a quelle situazioni dove magari l'insegnante non c'è, non riesce ad arrivare, no? I villaggi isolati, chissà in quali parti del mondo, è immaginabile qui una sostituzione parziale? L'idea è di costruire un ecosistema di strumenti che servono agli insegnanti. Fortunatamente con l'informatica, con gli strumenti di adesso, alcune attività possono essere monitorate a distanza, quindi le tavole, le scrivanie interattive possono essere lasciate anche a notevole distanza, anche a casa, e l'insegnante da distanza può in qualche modo monitorare e intervenire su, per esempio selezionando alcune programmando attività, per esempio le attività, no? Programmando sostanzialmente le attività, sì. Va bene, grazie Orazio Miglino. Grazie a lei. Va bene, ci fermiamo qui, anche per oggi abbiamo concluso, appuntamento a domani. Audi è innovazione, scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.